sabato del villaggio. Ci siamo per passare a RadioTube. Fatemi almeno però fare dei titoli di coda di questo sabato del villaggio. Mi piace come al cinema. In regia c'era Andrea Roccabella, dietro al vetro c'era anche Gianmarco Ferronato, in redazione mi ha dato una mano Cristian Goldoni. Adesso è il momento davvero di cambiarci d'abito, di passare alla nostra attualità della rete, dalla rete insieme a Daniele Bellasio con RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a RadioTube. Bella, scorsa settimana una puntata a distanza perché io ero a Vienna, avevamo preparato lo speciale sul cibo che è piaciuto molto, perché è piaciuto molto sentire Vilma De Angelis, ma anche questa puntata abbiamo una signora, grandissima signora della TV, sì, di cui io sono molto fan, lei lo sa perché l'ho scritto una volta. Senti, ma questa che puntata? Era una sorpresa. Questa è la centesima puntata di RadioTube. Quindi 100 ore assieme almeno abbiamo passato. 100 ore assieme. Alcuni erano mezz'ora, vabbè, comunque più o meno. È vero. Allora, io sono più venuto brevi. Preparatissimo perché tutta questa puntata è dedicata all'Eurovision Song Contest, no? Quindi no, io ne ho già parlato. Scusa, io mi sono sciroppato più di un'ora di una trasmissione praticamente inguardabile per venire preparato qua e tu ne parli nelle due ore precedenti. Eh sì, mi hai detto che non ne volevi parlare, io ne ho già parlato, ho già fatto. Vabbè, allora ero preparato su quello, altri argomenti vabbè. Della TV, web TV, social TV, il meglio, il peggio, l'imperdibile, imperdibilissimo, eppure però l'audience è andata bene di Eurovision. 10%, ragazzi. Tanto, cioè prima o poi coinvolgeremo anche Daniele Bellasio. No, vieni l'anno prossimo. Dov'è che si va? In Svezia. In Svezia, quest'anno dove si era? Un lampo è passato negli occhi di Daniele Bellasio. Mi piace come paese, io sono un cultore dei paesi freddi. Assolutamente, dei paesi nordici, Pasilin, tutti gli scrittori, Stig Dagerman. Comunque, Islanda quello era, però non importa. Vabbè, potete scriverci con l'hashtag RadioTube, oppure a @MartaCagnola, oppure a @DiBellasio, mentre l'hashtag del sabato del villaggio è ISDV. Ah, con che bravo, preparatissimo. Bene, parliamo però di musica. Parliamo di musica e di social network. Sì. Tutti vogliono sapere tutto di Gianni Morandi su Facebook. Posta delle foto straordinarie. Sì. Ieri ha postato una foto con una fetta di pizza dicendo: "Oggi sono da solo, quindi mi faccio un autoscatto con la fetta di pizza." Sì. E un suo fan gli ha scritto: "Nelle tue mani la fetta di pizza è un finger food." Perché sai che ha le manone, Gianni. Ah, carino. Carino, sì, sì. No, lui ha è sempre comico. Carinissimo. E poi lui vuole rispondere a tutti. Sì, ha detto che però e non ce l'ha fatta. 8.000. Senti cosa ha detto. Cosa ha detto in questo video che ha postato sulla sua pagina Facebook e noi ve lo mostriamo alla radio. Sono veramente sorpreso, ma anche molto contento delle migliaia di commenti che arrivano tutti i giorni sulla nostra pagina. Qualcuno si lamenta: "Ma a me non rispondi mai." Ma come faccio a rispondere a tutti? Ieri, per esempio, sono arrivati più di 8.000 commenti. Io la sera mi metto lì e cerco di fare il più possibile, calcolando, non so, una risposta ogni minuto. In due ore sono 120 risposte, ma i commenti sono 8.000. Come si fa? Ci vuole un po' di pazienza. Ciao! Beh, ma straordinario, lui vuole rispondere a tutti. Ci vuole pazienza, ci prova. Tu rispondi a tutti, figure. Oh, sì, io rispondo a tutti, sì. Beh, certo non ho 8.000 commenti a cui rispondere tutte le sere. Sì. Carino, però lui si impegna davvero tanto e poi, che è un signore carino, educato e rispettoso, gli scrivono, lui deve rispondere. Ma lui però non c'è troppe. Su Twitter, però. No, lui usa Facebook. Lui usa Facebook, gli piace di più. Infatti, anche la mia mamma. Generazioni e siamo... più o meno in quella generazione, un pochino dopo, una star in realtà nata soprattutto negli anni 80, perché Gianni Morandi, fenomeno dagli anni 60 in poi, invece lui si è rivelato alla fine degli anni 70 e poi è esploso all'inizio degli anni 80. Stiamo parlando di Toto Cutugno. Sì, e anche un altro lui, caso della questa rete. È sì, un beh. Caso questa settimana. Io l'ho visto dappertutto. Sì, perché ha fatto questa cosa in via Paolo Sarpi a Milano. Per chi non conoscesse via Paolo Sarpi a Milano, Chinatown. Sì, beh, una via peraltro bella, che poi arriva in una piazza molto bella, molto bella e ad alta densità di negozi cinesi. Ebbene sì. Di popolazione cinese. E lui cosa ha fatto? Per cosa una fatto? Trasmissione che andrà in onda dal 3 giugno in prima serata su Real Time, una trasmissione che parlerà di ragazzi italiani made in China, i ragazzi italiani ma di origine cinese che vanno per la prima volta alla scoperta della Cina. Per lanciare questa trasmissione Toto Cutugno cosa ha fatto? Ha cantato l'italiano. L'italiano ha cantato, però. Però in cinese. Sentiamolo. Che roba. Rawo fa xian chagaba. Iwei wu gan dao zi hao. Sci zungore, gente italiano. Zawan Italia, gli spaghetti al dente. L'unica cosa che ho capito è gli spaghetti al dente. Che non lo traduce, come mai? Anche italiano non lo traduce. Ma non credo che in cinese ci sia gli spaghetti al dente. Spaghetti di soia esistono, prendi la parola di spaghetti. Ma quelli al dente però non sto, sono gli spaghetti. Però inventi qualcosa. Comunque si capisce, no? È uguale. Sentiamo, uguale. No, si capisce, dai stavo le dicendo... calze a rete nel primo ma cassetto, sì, la bandiera benissimo. In tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Poi faranno il karaoke su questo, che lì va tanto, no? Forse... Beh, il karaoke più giapponese, è più giappone, però secondo me anche in Cina possono apprezzare Toto Cutugno vestito di bianco che gira per ma via Paolo. Ma anche con i capelli bianchi ho visto. Beh, insomma, però ce li ha ancora tutti. Lo dice la differenza tua. No, cattiva, vabbè. Questa settimana sei stata cattiva. Non è vero, non è vero. Ma è stata sdoganata la stempiata. Ma io non mi ricordo su che giornale era. Su Io Donna, oddio, chiedo scusa perché era uno dei due, lo sai? Che hanno sdoganato la... Io ero a Vienna, letto. Ma non lo sai, ma tutta la rete ha parlato di questo. Sdoganata la stempiata. Hanno messo le foto di Jude Law, mio sosia, peraltro. Hanno messo le foto di un sacco di questi. Bello di lavorare alla radio e dire di essere il sosia di Jude Law è tutt'uno. Comunque anche in regia c'è un po' di stempiata. Comunque, vabbè. E tanto è sdoganata anche per la regia. Ah, perfetto, sì. Ma io ho sempre detto che i capelli sono sopravvalutati. Sì. Voglio solo menzionare un altro fenomeno che riguarda Toto Cutugno, che c'è da qualche tempo. Ah, quello lì me l'hanno detto oggi. Bellissimo, è bellissimo. È la pagina, sì. La stessa foto di Toto Cutugno ogni giorno su questo Facebook. Questo è il titolo della pagina, sì. E anche sì. Quello che fanno, la stessa sì. Foto di Toto. Sì, che sì, foto sì. È? È una foto di lui negli anni 80. Con la chitarra in mano. Beh, c'è sempre la stessa foto, però è un esperimento scientifico che è legato a un esperimento scientifico di alcuni ricercatori dell'Istituto sì, perché Universitario Studi Superiori. 60.000 condivisioni, mi sì, pare. Sì, sì, sì. Ma ci dicono che dobbiamo dare sì, una sì, dobbiamo dare adesso pausa. La linea al ti faccio traffico bravo, del bravo, stavo facendo il mimo, il guidate traffico del, piano. Del villaggio e tra poco, beh, una sorpresa, un ospite straordinaria. Smau ti aspetta a Bologna, 4-5 giugno, Bologna Fiere, smau.it. Vi presenta YouTube. Beh, Daniele, nel primo blocco, nella prima parte del nostro RadioTube ci siamo divertiti con delle grandi star della musica, Gianni Morandi, Toto Cutugno. Sì. Beh, grande successo sulla rete. In questa parte però vorrei parlare di un argomento che riguarda tanto la rete quanto la TV, perché se ne parla tantissimo in televisione e ha come sempre una grossa eco sulla rete. La cronaca. La si parla davvero tanto di cronaca nera, si parla talvolta a proposito di cronaca nera, qualche volta non sempre si parla di cronaca nera con una certa eleganza. E lo fa soprattutto, secondo me, una grande signora della televisione. Lei non ama molto apparire, sai, lei è molto schiva. No, sono nella trasmissione. A me piace molto la sua trasmissione perché è la trasposizione in TV di uno stile, di un genere che io ho amato molto in un libro di Truman Capote che si chiama, si intitola A sangue freddo, che molti avranno letto. Cioè la capacità di raccontare storie maledette, così mi sa che ho un po' tradito la cosa. Hai fatto un po' di spoiler, hai un po' rivelato. Con una tecnica sopraffina nell'andare a individuare il dettaglio, ma non solo il dettaglio dei fatti, il dettaglio delle emozioni di chi quei fatti commetteva. Allora, io andrei subito ad ascoltare un brevissimo estratto di una delle storie più affascinanti e più drammatiche che lei ha rivisto, rivisitato, riletto, reinterpretato in televisione. Il corpo di Pasolini è un corpo senza pace. A rubare ancora oggi, nell'autunno del 2014, l'anima a quel corpo provvedono registi, scrittori, politici, giornalisti o solo ladri di immagini e di memorie che dovrebbero essere sacre, che lo sono. A rubare ancora l'anima a Pierpaolo Pasolini anche chi ha contribuito a rubargli la vita. E parlo di Pino Pelosi, che stasera sarà qui con noi. E ancora lo ascolteremo questa sera per fargli raccontare l'ultima delle sue verità o ancora un'altra delle sue bugie. Beh, l'avete riconosciuta tutti una delle grandissime signore della televisione. Buonasera Franca Leosini. Franca, che meraviglia. Mi confondetemi. Io me la sono riascoltata tutta, me la sono rivista tutta questa puntata per trovarne un frammento. E secondo me è un bel esempio del tuo lavoro, perché ricerca storica, narrazione, notizia. Come rispetto delle storie, perché è una cosa importante, a mio avviso, se me lo consenti, è rispetto delle storie, rispetto dei vivi e dei morti, insomma, è quello che appunto purtroppo qualche volta, sembra non dire molto spesso, quando appunto si trattano vicende giudiziarie, che sono, Marta anzitutto e Daniele, sono anzitutto vicende umane, quindi si trattano tante volte, diciamo così, con un'assenza di rispetto che vuol dire tante cose. Se vuol dire fare di una vicenda giudiziaria umana un prodotto di consumo, insomma, appunto raccontarla come diciamo farne mangime per gossip, ecco, questo che io ritengo, ecco, possa essere non giusto, per non dire sbagliato, nel trattare la cronaca giudiziaria. Ci aiuti a capire come si fa a tenere assieme uno stile letterario e un metodo quasi scientifico, che poi è un po' forse la ricetta per avere successo facendo giornalismo in televisione? Ti ringrazio molto. Insomma, guarda, io come si fa, probabilmente non so. È il linguaggio? Il Signore mi ha dato il dono del linguaggio, insomma. Però io, ecco, tu hai toccato un punto a cui io tengo tantissimo, il linguaggio, perché trovo che, insomma, il linguaggio, proprio la parola, io credo alla parola, insomma, bisogna possederla la parola, perché la parola è un veicolo fortissimo e noi che facciamo questo mestiere, dico noi, voi addirittura più di noi che facciamo televisione, perché voi usate solo la parola, che è una forza enorme, praticamente abbiamo l'obbligo di usare un linguaggio, l'obbligo proprio, oltre che, diciamo, la necessità, proprio l'obbligo, perché noi siamo dei modelli, come parliamo così ci imitano, insomma, le persone assorbono. E poi ti dico una cosa, Daniele, Marta, non è affatto vero, insomma, che le persone, guarda, il mio orgoglio è che Storie Maledette, ti dico, come le altre trasmissioni che ho costruito, condotto, praticamente sono trasversali come ascolto. Sì. Cioè, è chiaro che io vengo ascoltata dai piani alti, nel senso della cultura, però la cosa che mi inorgoglisce è che una mia foto veleggi fra zucchini e peperoni sul carretto di un verdumaio, che l'ha voluto la mia foto con dedica, e io sono orgogliosa per dire che se usiamo un linguaggio che non sia banale, se me lo passi, che abbia una certa ricchezza di aggettivi, di costruzione. La gente ci segue non solo, ma ci imita. Ecco, tu hai toccato proprio il punto del linguaggio sul quale io, diciamo... Eh sì, perché è il rispetto del telespettatore. Assolutamente, rispetto, proprio hai detto bene, rispetto non solo, ma è un obbligo nostro, che insomma, quando mi chiedono, ma la televisione deve educare? No, non deve diseducare. Sono è già qualcosa, è giusto. La diseducazione passa proprio attraverso un linguaggio sgradevole, povero, sbagliato, volgare anche, se me lo passi. A proposito di registri e di linguaggi, sì, però Franca Leosini ci fa anche talvolta sorridere, perché sa anche essere sorniona. Io ho molto sorriso con questa storia che appunto ho rivisto per l'occasione preparando questa puntata, molto garbata, molto carina, a suo modo anche divertente nell'assurdità delle conseguenze che aveva dovuto subire questa signora alla quale era capitato questo. Il dottor Alessandro Bernaroli ha gambe lunghe affusolate. Il dottor Alessandro Bernaroli ha mani delicate e caviglie sottili. Il dottor Alessandro Bernaroli è alto 1,80 m e ha movenze lievi da gazzella. Il dottor Alessandro Bernaroli ha fatto il servizio militare a Torino nel 1997. Il dottor Alessandro Bernaroli vive a Bologna ed è funzionario in un istituto di credito a Modena. Il dottor Alessandro Bernaroli ha una moglie di luminosa bellezza. Dopo 3 anni di matrimonio, il dottor Alessandro Bernaroli, che si è sposato a Finale Emilia il 21 maggio del 2005, si è sottoposto a intervento chirurgico e ha cambiato sesso. Beh, è straordinario questa, straordinaria questa costruzione perfetta, narrativa perfetta, e poi tutto, insomma, tutto in punta di penna, che in televisione è tutt'altro che scontato. Ma siccome la storia era garbata, era deliziosa, perché questo dottor Bernaroli era una gentile signora molto carina. Sì, tanta, ma di carina. Molto carina, molto carina. Lei, tu Franca, hai anche un po' giocato col dottor Bernaroli, perché mi sono concessa di rubare questo estratto, eccolo qui. Sono contentissima. Prima di legarsi a Alessandra, alla ragazza che diventerà poi sua moglie, lei ha avuto altre ragazze, flirtini, storielle? Sì, qualche fidanzatina, sì, l'ho avuta, certo, però il mio obiettivo era quello proprio di conoscere il mondo femminile. Mi scusi se io la interrompo. Ecco, lei ha avuto storielle, ecco, ma con queste ragazze, ecco, lei ci faceva lo zezzo, dico sulle mie parti, insomma, intendo dire, ecco, aveva con loro approcci, diciamo, gioiosamente sporcaccioni. E così si fa, gioiosamente sporcaccioni, Franca, straordinaria. Mi hai fatto veramente sorridere, perché perché pensa che questa puntata che io ho, diciamo, ho costruito, ho mandato in onda prima che ci fosse l'ultimo grado di giudizio, perché insomma, come tu ricordi la puntata, queste sono la moglie di mia moglie, questo è il titolo, praticamente queste due donne volevano, ormai donne, volevano restare sposate, ed è stata fondamentale per la soluzione del caso, perché praticamente la Cassazione ha deciso che nessuno ha il diritto di sciogliere un matrimonio senza la volontà dei coniugi. Quindi la puntata di Storie Maledette è stata determinante perché loro restassero sposate, insomma, questo è successo da un paio di mesi, insomma, sì. Quindi però appunto, però ti dico una cosa, io spesso, insomma, l'arma dell'ironia la adopero, insomma, quindi anche perché serve anche, anzitutto perché io sono ironica, ma poi tante volte serve a drammatizzare, insomma, quindi se no, insomma, diversamente diventa così una cosa troppo dolorosa, insomma. E poi, come in tutti i casi, il successo viene decretato dalla parodia. Certo. Allora, voglio sapere il vero successo. Noi ne abbiamo un pezzettino, perché poi voglio sapere cosa ne hai pensato quando l'hai vista tu. Eccola qua. Davvero lei era ignara del baratro oscuro e profondo in cui questa scelta efferata, scellerata, nefanda, birbante, infamona l'avrebbe condotta? Poteva rinunziare, eppure non l'ha fatto. Era davvero necessario questo programma sulla terza rete? No, ma io l'ho fatto così, senza... Senza che? Agli atti risulta infatti una sua totale partecipe, incondizionata, mascalzona, adesione a questo progetto criminale. No, ma io non credevo che... Beh, a cosa crede esattamente? Alla Befana? Hm? Al topino del dentino e la moneta sul cuscino? Nell'estate, calda e acquosa, sono dolce, sono succosa, sono morbida, sono fresca, uffa, insomma, sono là. Coraggio. La pesca. Mi dispiace, colpevole. Franca, so che di questa imitazione di Paola Cortellesi hai detto, io però il taglio rosso non l'ho mai messo. Mai, no, mai messo, mai messo uno Chanel, però lei, loro lo sapevano e difatti accuratamente hanno scelto di, diciamo così, di non così fare vestire Paola con, diciamo, come io in generale vesto, con altre così sigle di moda. Ma insomma, in tutto questo Palma ci ha messo 6 mesi per cercare di imitarmi e io l'ho trovata straordinaria. E poi, non so se ricordi, in diretta, perché poi c'è stato una diretta fra me e lei, sì. Praticamente io l'ho fatta arrestare per esproprio di identità, fantastico. Ma poi insomma, la parodia è una consacrazione straordinaria, insomma, ti pare? Grazie Franca, grazie per essere stata con noi, per noi un onore enorme, il regalo della centesima puntata, davvero la nostra centesima puntata con una grandissima ospite. Grazie, ciao. A presto quindi, grazie a Franca Leosini e le sue storie maledette. Un bacio a tutte e due, ciao. YouTube. Beh, abbiamo avuto una grandissima ospite nella prima metà del nostro RadioTube, abbiamo parlato con Franca Leosini. Io quasi farei tutte le puntate in silenzio elettorale. Ah, così non parliamo di politica? No, perché così abbiamo questi ospiti pazzeschi, parliamo di cose divertenti. E non parliamo di della quello solita che fanno politica. I politici italiani. Beh, questa settimana non potevamo, e con una certa gioia, devo con dire. Con una certa gioia, però io volevo non parlare neanche di calcio, perché io sono in silenzio elettorale fino alla finale di Champions League. Non voglio parlare di calcio, dalla vittoria dello scudetto della Juve, sì, fino alla finale di Champions League, non voglio parlare di calcio se non per gufare. Adesso chiediamo al nostro ospite se è lecito gufare. Perché tu hai paura del triplete. No, ma quello è scontato. Il perché loro il triplete anno, l'aveva fatto solo uno. Resterà unico quel triplete. Però la Juve è il suo anno, lo farà. Sono sicuro, sto gufando, lo dico. Cioè, perché sennò si pensa che, siccome non si capisce dall'espressione del volto, siamo in radio. Chiediamo al nostro ospite. Al nostro ospite. Lo chiamo sempre come il suo account Twitter, Giude Bellis, ma è Giuseppe De Bellis. Buonasera. Vice direttore del giornale. Ciao, eccolo qua, vice direttore del giornale e poi responsabile di quell'avventura straordinaria. 11 #11. Allora, sta gufando Bellasio, non lo so. Si può gufare, secondo te? Si può, è lecito. Assolutamente. E secondo me, gufare, tifare contro è una delle cose più lecite dello sport. Grazie, perché io un po' mi sento in colpa, siccome io sono un pochettino bravino ragazzino, quando gufo, però mi viene talmente naturale nei confronti della Juve. C'è la cattiveria, quella cattiveria che è il sottosommerso. Perché nei confronti della Juve è una questione etica proprio, una questione di divisione. Adesso chiamo Cristian Rocca, adesso telefono a Cristian Rocca in diretta per fare un po' di par condicio. Giude Bellis è capace di difendere le ragioni della Juve, ha scritto cose. Allora, io ho citato triplete, perché questa settimana c'è stato un video che io ho capito poco, perché in realtà parlava di calcio inglese, quindi capivo poco, ma inglese. quel bell'uomo quanto mi piace, di José Mourinho, per me può allenare qualsiasi squadra del mondo e resta. Che va bene. Ma sì, mi piace sempre tanto. Cosa ha fatto? Allora, come Jep Gambardella non voleva partecipare alle feste ma voleva avere il potere di rovinarle, José Mourinho non vuole solo vincere, vuole stravincere e vuole anche fare il comico, ma senza ridere mai, sempre imperturbabile, e ha fatto questo piccolo show nel corso della cerimonia per la premiazione del giocatore dell'anno del suo Chelsea. Praticamente José Mourinho, in questo modo, ovviamente il video è in inglese, adesso me lo dovete spiegare, ha infierito sui suoi avversari. Now I have for you a fiction story, and let's try to enjoy the fiction story I have to tell you. Dice, ho una storia di finzione, divertitevi ad ascoltarla, spero che vi piaccia, divertitevi ad ascoltarla. One ball, but there is one team that would like to play without goals. And that team... Cioè, praticamente dice che c'è una squadra che vuole giocare senza pallone, una che vuole giocare con una porta sola, sì, che una dice City. Che vuole giocare senza porte perché praticamente deve vincere solo col possesso palla senza segnare. Molto carino anche per l'Arsenal, dice che ha chiesto alla FIFA di poter giocare solo tra gennaio e aprile. Per il clima? Perché, no, perché sarà forte in quel periodo. Ah. Sull'Arsenal, su 11 c'era un pezzo stupendo. Qualche edizione fa. Vai. Giuseppe, tu l'hai visto questo video che è girato tantissimo in rete, sì, di José Mourinho? L'ho visto perché era impossibile non vederlo. E poi devo dire che anch'io, come te, ma anche come Daniele, che adesso fa finta di niente, sono un mourinhiano convinto. Quindi qualunque cosa faccia Mourinho, secondo me merita attenzione, anche quando fa queste cose che sono ai più, come dire, antipatiche, e invece a me comunque lo rendono abbastanza simpatico, perché è autentico anche nel suo essere, appunto, antipatico, sopra le righe. Per me ci sta che nel calcio uno sfotta, peraltro ha sfottuto quello che è stato il suo maestro e che lui riconosce sempre come maestro, che è Van Gaal, quindi che è l'allenatore del Manchester United, quindi non se la prende soltanto con quelli con cui ha un pessimo rapporto, tipo l'allenatore dell'Arsenal, Wenger, se la prende anche con quelli con cui invece va cordialmente a prendersi una birra, se potesse, o farsi una chiacchierata di calcio, e l'ha fatto in questa circostanza. Secondo me in Inghilterra c'è stato molto meno, è stato un caso molto, come dire, contenuto rispetto a quanto è accaduto all'estero, cioè qui da noi e in altri paesi come la Spagna è stato interpretato in maniera molto più aggressiva di quanto sia stato fatto in Inghilterra. Senza entrare nel dettaglio di tutto questo delirio della FIFA, delirio della FIFA fa ridere, qualcuno l'aveva già predetto. Ora, anch'io che non è che mi occupi più tantissimo di calcio, perché ho avuto un po' la saturazione negli ultimi anni, diciamo che non ero proprio all'oscuro del fatto che ci potesse essere qualcosa di strano nell'assegnazione, ad esempio, dei mondiali in un posto in cui è anche difficile respirare, figuriamoci, a giocare a calcio, sto intendendo proprio per condizioni climatiche. Però erano cose che si dicevano, si potevano dire, non si potevano dire. Chi invece le aveva descritte con totale chiarezza, prevedendo tutto per filo per segno, erano stati i Simpson. Beh, capita. Che avevano previsto lo scandalo corruzione che, appunto, ha travolto la FIFA in una puntata del marzo dello scorso anno, perché Homer aveva incontrato un funzionario della federazione che gli aveva parlato della corruzione nel mondo del calcio, proponendogli un ruolo nei campionati del mondo. Allora, questo video nelle ultime ore ha fatto il giro della rete. Seconda vita. Sì, peraltro ha fatto il giro della rete in inglese, ma noi ce l'abbiamo in italiano, perché mostrarlo alla radio in inglese è un po' difficile. Eccolo qua, Homer Simpson. Salve, signor Simpson. Io sono il vicepresidente della Federazione Mondiale del Football. Quello che da noi viene chiamato calcio. No! Sono sicuro che lei conoscerà i mondi di calcio, il dramma quadriennale che non ha uguali sul pianeta. Oh, sì, è quella cosa per cui i maschi della tintoria si eccitano tanto ogni 4 anni. Purtroppo c'è stata un'epidemia di arbitri comprati per far perdere le partite. Dalla Serie A ai parchi giochi, la Corusao è ovunque. Abbiamo bisogno di un simbolo di integrità come lei. Signor Simpson, la prego, ci aiuti. Il marcio è dovunque. Anzi, vedo bene che io stesso sto per essere arrestato per Corusao. Devi pensarci tu d'ora in poi, Peter. Sì, tranquillo. Mi prenderò tanta cura di tua moglie. Scusa, cosa significa? Signor Simpson, io sono il nuovo vicepresidente della Federazione Mondiale del Football. Beh, questa vicepresidente era... proprio, eh sì, perché vicepresidente subentrava subito al presidente arrestato in quel momento. Era la puntata Non sei tenuto a vivere come un arbitro del 30 marzo 2014, trasmessa in Italia il 20 ottobre 2014. Ma poi questi mondiali con Homer arbitro si giocavano? Così. Homer Simpson, vorrei congratularmi con te per il tuo bel servizio di oggi. Grazie, ancora non ci credo che cartini giallo e rosso non stiano per senape e ketchup. Vedrai, la tua incredulità svanirà col tempo, ma adesso vorrei tanto sapere se sei incorruttibile, come dicono. Tu non conosci affatto il nuovo me di questi ultimi giorni. Lo convinceremo. Abbiamo i nostri mezzi. Ma quali altri mezzi, a parte le pistole e i soldi? Abbiamo due mezzi molto validi. Samba! Cartellino rosso! Aspetta che te lo restituisco. I giocatori giocatori d'azzardo hanno mandato su ciambelle glassate, una palla da bowling di cioccolato e un panino al maiale fresco. Oh, quanto fresco! È bellissimo quanto fresco il maiale che gira. Giuseppe, quanto secondo te questi scandali davvero adesso influiranno sulla percezione del calcio? Perché in questi giorni si è parlato praticamente solo di quello. Guarda, io penso che non influiranno moltissimo, proprio per quello che dicevi tu, cioè l'appassionato di calcio, più o meno consapevole, a spizzichi e bocconi sapeva, perché sui giornali, cioè nelle inchieste televisive, in alcune inchieste uscite in libri molto importanti negli ultimi anni, e come dire, nel sospetto continuo che da anni circolava attorno al mondo del calcio, del potere del calcio, si era quasi, anzi togliamo il quasi, convinto che comunque alla FIFA le cose funzionassero un po' così, come peraltro alcuni altri esperti di altre cose, penso per esempio alla politica internazionale, sanno che alle Nazioni Unite le cose in passato non è che funzionassero in maniera molto diversa rispetto a quello che abbiamo visto con la FIFA. Quindi l'appassionato vero, quello che segue tutti i giorni, non è rimasto sorpreso del fatto quanto della portata del fatto. L'appassionato meno consapevole invece ovviamente sarà rimasto colpito, però credo che poi sullo sfondo di questo, di questi scandali, ci sia la consapevolezza che il potere del calcio e il calcio siano due cose non necessariamente collegate, ovvero quando noi andiamo il sabato e la domenica oppure tutti gli altri giorni della settimana a guardarci una partita dal vivo o in TV, in realtà noi appassionati appunto ci guardiamo quello che avviene sul campo, poi ci scanniamo per il rigore negato, per il fuorigioco non dato, per il gol non gol, e attribuiamo a quegli episodi il valore dell'episodio gravissimo determinato dalla corruzione, eccetera, eccetera. Però poi inevitabilmente rimaniamo comunque attratti dal gioco, che non è chiaramente un gioco nel senso letterale, perché per noi tutti è molto più di un gioco, però e ci convince di più lo sport di quello che sta sopra lo sport. E quindi io alla fine credo che passerà un po' di tempo e poi questo scandalo sarà archiviato come una cosa tristissima, ma che sarà poi superata dalla bellezza del gioco. Ma ridatemi il Toto Calcio, le partite la domenica, basta. Dobbiamo richiamarlo, lo dobbiamo richiamare. Dopo che c'è stata Giuseppe la finale. De Bellis, grazie. Ciao. Chiocciola Giù De Bellis per chi lo vuole seguire su Twitter. Grazie per essere stato con noi. Noi ci risentiamo tra poco. Grazie Giuseppe, a presto. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta. YouTube. E come passa in fretta il tempo? Sono passate 100 puntate, pensa, la 100, centesima puntata di RadioTube, e dopo si va a festeggiare, festeggiamo 100 puntate. Ma sì, festeggiamo. Festeggiamo anche questa puntata che a me è piaciuta molto, sì, belli ospiti, bei temi. Il terzo blocco siamo al quarto. Questo è il quarto, sì. Però partiamo da Paolo Bonolis. Perché allora? Che ha fatto? Bufale in rete, ma sempre. Io non so quale sia il meccanismo qualcuno mentale. Qualcuno deve morire, che poi non è vero. Per fortuna la rete, come dico sempre io, c'ha gli antidoti, sì. E la bufala tanto velocemente nasce e tanto velocemente si sgonfia. Ebbene sì, allora perché questa volta lui. Il morto era Paolo Bonolis. Che allora porta bene, allunga la vita. Sì, porta bene, allunga la vita. Lui ha fatto un video, non l'ha fatto su un suo profilo o su un suo account, né perché su Twitter. No, lui non lo usa. Credo sia stato girato dalla moglie, che invece è molto presente sui social network. E Paolo Bonolis ha raccontato così. Io sono morto, peccato, onestamente mi sentivo bene, ma sono morto e quindi ora sinceramente non so cosa devo fare, nel senso che curiosamente l'aldilà qui attorno a me è esattamente uguale a quello che c'era prima, per cui non so quanto poi alla fine della fiera convenga morire se le cose restano esattamente come sono prima. Ecco, questo è il famoso gatto dell'aldilà, lei è mia figlia dell'aldilà, lui è mio figlio dell'aldilà. che mangia come un maiale, perché lui resta maiale anche nell'aldilà. Speravo in delle migliorie. Insomma, a presto, venite il prima che potete, soprattutto voi che avete messo quella cosa. Vi aspetto, in un attimo vi aspetto. Vabbè, l'ironia di Bonoli, grande, soprattutto voi, tac, soprattutto voi. Ha coinvolto voi, tutta la famiglia. Cioè, sì, perché c'erano, passava il gatto, la figlia, lui stava davvero cenando e ha fatto... Vabbè, ha smentito con l'immagine che sai noi abbiamo mostrato. Sai di cosa non parliamo e con cosa non giochiamo da un po'? Con Periscope. Beh, e te dopo guarda, non giochiamo con Periscope. Stai cercando di capire quali possono essere gli usi intelligenti di Periscope. Tra gli esperimenti intelligenti, secondo me quello di Max Pezzali, che noi aspettiamo prestissimo in studio, prestissimo arriverà il sabato insieme a noi. Max Pezzali sta per uscire, il 1 giugno esce il nuovo album Astronave Max. Questa settimana ha lanciato il secondo singolo, che si chiama Sopravviverai. E cosa ha fatto? Beh, l'ha lanciato su Periscope. Su Periscope. In questo modo. Ed eccoci qua. Siamo... Eccomi, sono con Alex e Pierpa di là, siamo nello studio di Alex e siamo pronti, scusate la mano che trema ma è l'età purtroppo, non è una questione proprio di telefono, niente, siamo pronti a far ascoltare l'anteprima di questo nuovo singolo che si intitola Sopravviverai, tratto dall'Astronave Max, da Astronave Max, l'album nuovo che uscirà il 1 giugno, e quindi come si fa in questi casi? Si preme la barra spaziatrice. Vediamo se la becco. Tac. È il singolo Sopravviverai, ormai è uscito, cuoricini, commenti, anche perché adesso Periscope è arrivato anche per Android, quindi diciamo l'altra metà del mondo. Oh, finalmente non si sentiranno poi ghettizzati. Poi quando dico così, quelli che usano... Dicono, ma che metà? Noi siamo molto di più! E quelli che usano invece Windows Phone dicono, ma come ti dimentichi quelli... Sono battaglie di religione. Ma era una battuta. Ognuno per dire adesso tifo, io il mio, tu hai tutti. Il tuo. Ma io sono democratica, io un po' tutto. No, io no, uso io tutto. Non sono democratica. Io uso tutto. E comunque, beh, lui ha fatto sentire carino perché era proprio nello studio, lui è mostrava tutto. È un po' tutto. Un'evoluzione di quello che aveva fatto Giovanotti per il suo, no? Che faceva i video, che metteva sul sito. Sì, poi lo stesso Giovanotti ha fatto vedere le prove. Sì, adesso Periscope è democratico per tutti. Un esempio molto illuminante. Ma poi hanno fatto Periscope al Presidente della Repubblica. Possiamo parlare del Presidente? Che c'è il silenzissimo elettorale. Dai, figura di garanzia. Ah. Non è che, ma poi in realtà noi parliamo della regina Elisabetta, non del Presidente. Ma forse allora io al solo pensiero è uno di quei video dei quali non riesco a parlare perché c'è Olga Fernando alle lacrime. Allora intanto c'è il mio mito Olga Fernando. Dai tempi del Maurizio Costanzo Show. Lei è sogno erotico mito anche di generazioni, si può dire sogno erotico in sé. Credo che è comunque un complimento, sì, comunque, esatto. Sui generis è un complimento, diciamo, apprezzamenti. Vabbè ti sei infilato in un cul-de-sac dal quale usciamo subito. Cosa succede? Presidente della Repubblica, figura di garanzia, quindi non è per di più prima sta la Corte Costituzionale, quindi assolutamente super parte. Quel silenzio elettorale rispettato. Silenzissimo. Anche lui ha rispettato una sorta di silenzio con la regina. Non è che proprio mastichi l'inglese. Però guardalo dall'altra parte, la regina non mastica l'italiano. Quello è vero. Va a trovare la regina Elisabetta. Che all'alba dei suoi 18 anni è ancora regina nel frattempo. Inossidabile. In io comincerei a mostrare alla radio. Guardo Carmelo, comincia a mostrare alla radio quello che però succede. Però spieghiamo, il problema è che non fanno entrare una determinata persona. Non fanno nella entrare stanza. Olga Fernando. E commettiamolo in sottofondo. L'annuncio. Olga Fernando rimane chiusa fuori. Ah, la regina comincia a parlare. Is this the first time you've been in London? Prima volta. Silenzio. You've been before. È stato già fatto prima, perché nel frattempo Olga Fernando, siccome era rimasta chiusa fuori, cerca di entrare, perché ovviamente ce la fa, ma entra di corsa e traduce questo colloquio surreale della regina che dice è stata una volta. Ma da quanto tempo lei è presidente della Repubblica? Questa istituzione così bizzarra di questi nostri paesi. Ma non dire così da vecchia repubblicana che sei. Ma ascolta, il punto. Io sto piangendo perché a me fa ridere solo pensiero il punto, di Olga Fernando chiusa fuori che cerca disperatamente. Prova tu che stai entrando dalla regina. Non si sa, uno non sa come deve comportarsi, non sa cosa dire, non sa come fare. C'è tutto lui un problema. problema del rapporto con la borsa. Lui è imbarazzato. Lui a un certo punto. Ma no, lui non è imbarazzato, lui è freddo come è normalmente. Sì, ma il problema è che lui guarda calmo. Nel vuoto perché non capisce. A però certo la sua punto, la sua interprete non c'è. Dice: sediamoci qui più o meno con lo stesso modo con cui avrei detto: ma non so, prendiamo la birra, non lo so. Cioè, tanto per spezzare il ghiaccio. Bravi. Beh, senti, io rido perché è. Di una, non lo so, no, è che comico, il presidente non può usare, è costretto all'interprete, non può usare il globish di che un primo ministro invece si in può generale, concedere in generale che i primi ministri. Senti, passiamo velocemente che non riesco a non parlare. No, allora io volevo parlare cosa. Di quest'ultimo argomento, però non c'è tempo. Allora, non c'è tempo, ne parliamo la prossima. Spiegheremo la prossima 101. Settimana, la 101esima, cosa hanno combinato i ragazzi in rete questa settimana. Perché io vado sempre a curiosare quello che fanno i ragazzini, perché... Quali ragazzi? Tuo nipote? Per esempio, ciao Nico, ciao Leo, anche l'altro. Anche comincia Leo. A guardare, comincia a guardare, esatto, i video in rete di questi youtuber che si fanno le sfide. Questa settimana era stata la sfida, la Charlie Challenge, la prossima settimana spieghiamo. Ah, ma era terribile. Sì, però la volevo criticare. La prossima settimana magari la prossima settimana c'è un'altra sfida ancora che esatto. si fanno i ragazzi in rete. Charlie. Non si sta più dietro a questi ragazzini che se ne inventano una tutte le settimane. Signora mia, ma questa era la settimana della centesima puntata di Radio Tube. Adesso si va a festeggiare. Noi andiamo a festeggiare. Ci vediamo. Vi vedete a Sabato del Villaggio alle 3 sabato prossimo. Sì. E se no alle 17. Ho fatto con Radio due Tube. Tipi di orari con Radio Tube. Ringraziamo Carmelo e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!